Natale portando il peso di un anno in più. Ritornerà Natale senza avvertire, senza pietà. Luci, capelli d'angelo, aria di neve scende dal nord. Cosa c'era di speciale in quel giorno di Natale? Stretti dentro i cappotti, le mani in tasca, che freddo fa. Notte di stelle e abbracci, l'amore scalda, la neve no. Cosa c'era di speciale? Alle finestre sulla via, voci di bambini dentro il cortile di casa mia, luci di Natale dentro il soffitto delle strade, stelle di allegria appese agli alberi d'abete. Poi tornerà Natale portando il peso di un anno in più. Notte di stelle e abbracci, l'amore scalda, l'inverno muore.